Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Sono la mamma di Matilde, 8 anni, uccisa mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in pieno giorno. Sono la sorella di Mario. Mio fratello è stato investito il 13 giugno del 2014. Siamo qui per confermare al Premier la nostra fiducia nella sua parola, perché vogliamo che entro il 31 dicembre questa legge finalmente diventi una legge dello Stato e vogliamo che sia una legge giusta ed equa per tutti. Io personalmente ho perso un figlio, Massimo, 17 anni, ucciso da un signore che c'era 1,78 in corpo di alcol e una velocità enorme rispetto a una strada che prevedeva il 30 km orari. Ha invaso la sua corsia e me l'ha ammazzato. Questi erano parenti delle vittime di incidenti stradali che da qualche giorno stanno facendo sit-in davanti alla Camera, perché lì si sta discutendo, ma questa sera pare che sarà dato il via libera, alla legge sulla pena per l'omicidio stradale. Sappiamo che la pena è stata aumentata, ma prima era stata diminuita. Seguiremo tra pochi istanti l'iter parlamentare di questa legge, ma forse vale la pena di ricordare, questo è un tema che noi a Melog sosteniamo da anni. Da anni ripetiamo che al di là dei grandi problemi che attraversano il nostro paese, di fatto muoiono più gente uccise sulla strada che uccise con armi da fuoco, da taglio, in qualunque altra maniera. E chi uccide persone guidando la propria automobile per un atto di inconsapevolezza o di trascuratezza o di criminale negligenza, guidando in stato d'ebbrezza, guidando sotto effetto di droghe o semplicemente pensando che in fondo non è tanto grave passare con quel semaforo rosso o non è tanto grave andare a una velocità che è oltre il limite minimo, eh sì, ma perché sono rincoglioniti i sindaci, mettono figura 30 all'ora in questa strada, possiamo andare più veloce, oppure hanno macchine scattanti, rombanti, macchine che sono la rappresentazione concreta della loro potenza, della loro forza, della loro virilità. Poi loro hanno sempre fretta, quindi hanno una vita molto indaffarata, hanno sempre stare al telefono. E ancora vedo persone che telefonano tenendo il telefono in mano in macchina. E prova a dirgli qualcosa, guardarli male, o se sei magari in un passaggio pedonale, fagli un cenno, dico: ma metti giù questo telefono. Ti linciano, ti ammazzerebbero dentro il loro regno, che la loro automobile, possono fare ciò che vogliono, e fuori non esiste nulla, esiste un mondo fatto di insetti da schiacciare. 800 24 0024, a tra un istante, sulla legge per l'omicidio stradale. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Oggi sono 2 anni e 3 mesi alle 23:50 dal giorno in cui io e mio marito, in macchina in Autostrada del Sole all'altezza di Barberino, fermi in coda, abbiamo vissuto una tragedia. Mio marito non c'è più, io sono stata tanti mesi grave. Roberto è morto, abbiamo donato gli organi. Un tir ci ha massacrato perché correva ed era distratto e non ha rispettato i limiti di velocità. Cos'è che avete paura? Che si abbassino le pene minime? No, le pene che vogliono mettere solo per gli ubriaconi e per i drogati. Se io, che non sono ubriacone, non sono drogata, vado a 150 all'ora e ammazzo 12 persone, a quanto pare non succede niente. Quindi c'è qualcosa che non quadra, a mio parere. 800 24 0024, queste erano altre voci del sit-in delle vittime della strada, in attesa che la Camera si pronuncia sulla legge per l'omicidio stradale. Sono prese dal sito del Fatto Quotidiano. Avvocato Gianmarco Cesari, buongiorno. Buongiorno. È avvocato dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. Dove sta lei in questo momento? Sono alla Camera dei Deputati per assistere al voto in aula sulle pene che si discute oggi. Ecco, qual è il clima, e ci riassuma di quello che sta accadendo rispetto alle tante volte che ci siamo sentiti. È un momento decisivo veramente, oppure è uno dei tanti palliativi rispetto a quello che voi vi aspettate? Purtroppo è un momento decisivo sicuramente, perché dopo oltre 10 anni, dal 2006, si pone mano alla pena per l'omicidio stradale. È purtroppo purtroppo abbiamo la paura che sia un palliativo, perché le pene che dal Senato sono arrivate alla Camera dopo la discussione in aula e dopo che si è fatto l'esame in Commissione Giustizia e Trasporti Unificate, purtroppo riportano ancora dei minimi della pena troppo bassi rispetto a quello che era l'esigenza di sopperire a purtroppo quella prassi forense che parte sempre dal minimo della pena nei confronti della criminalità stradale e poi con degli sconti di pena di 2/3 per le generiche, per la scelta dei riti speciali, patteggiamento abbreviato, riducono di 2/3 le pene e fanno sì che i criminali stradali dalle aule di giustizia ritornano tranquillamente a casa e magari a uccidere di nuovo. Ecco, mi sembra aver capito, anche riportando in memoria tutto quello che siamo detti, che quello che voi chiedete è una percezione anche giuridica del fatto che un omicidio stradale non sempre, in ogni caso, non può essere a priori considerato come un atto dovuto a una sfortuna, a un caso malaugurato, a un insieme di circostanze. Insomma, l'omicida stradale non viene visto come oggi viene visto una persona che uccide un'altra persona, magari in altre maniere, in altri modi. L'omicida stradale, anche se ha un notevole senso di responsabilità, trascurando il codice della strada, trascurando i limiti minimi di velocità, le situazioni di sicurezza, poi bevendo, facendosi di droga, uscendo alterato dai locali, considerando che questo non sia una cosa grave, ma sia così, vabbè, come quasi una marachella perdonabile. È questa l'idea? È questa l'idea. Purtroppo le pene che sono oggi stabilite dal 2006, dalla legge 102 del 2006, cioè ovvero minimo di 2 anni fino a un massimo di 7 anni, un massimo fino a 15 anni se si uccidono più persone, che il giudice quindi può aumentare la pena base di un solo giorno fino a, e non certo un raddoppio. Ecco, queste pene non hanno più alcuno scopo preventivo e non fungono più da deterrente di fronte alla strage stradale, che poi soprattutto quest'estate in Italia ha avuto un picco assurdo. Rispetto poi a quello che è che sono le pene in altri stati europei. In Inghilterra, per esempio, un criminale stradale va in carcere effettivamente per 8 anni. In Kazakistan, rilasciato ieri proprio un'intervista, ho saputo che una legge recente ha stabilito in Kazakistan per un qualunque omicidio stradale, droga, comunque qualunque sia, da 8 a 20 anni di reclusione. Ecco, quindi gli italiani in questi ultimi mesi hanno il mito del Kazakistan, prima di tutti a che spoiler il Kazakistan, tenete conto che il Kazakistan, che andate a vedere cosa si mangia in Kazakistan, che ancora non lo sappiamo, però esattamente la pena di omicidio stradale è una pena seria, sicché le persone ci pensano 10 volte prima di bere e mettersi alla guida, pensano 50 volte. Esatto, purtroppo il reato di omicidio stradale in Italia è considerato un reato colposo di serie B, che corrisponde quasi a una tragica fatalità ancora. Per cui esiste un buonismo legale da cui dalle aule di giustizia si esce sempre con una richiesta addirittura da parte della Procura della Repubblica del minimo della pena, che poi va scontata per le attenuanti generiche di 1/3, di patteggiamento 1/3. Quindi un criminale stradale se la fa franca con 1 anno e 6 mesi. Ma anche quando fa omissione di soccorso ci sono delle aggravanti. Se lui... Sì, ma l'omissione di soccorso è punita con una pena talmente risibile, derisoria rispetto alla gravità del reato, e purtroppo che conviene scappare, cioè la mente conviene scappare assolutamente, perché si rischia pochissimo di più, e a quel punto conviene scappare e giocarsela, e magari la persona quindi potrà salvarsi e può morire. Fermiamoci un attimo, avvocato, c'ho già 2 ascoltatori, 800240024, poi lei si prepari, voglio domandarle chi in questo momento è contrario, diciamo, a questa legge, perché ci sono delle forze politiche che sembra che non siano d'accordo. Fermo un attimo. Marco, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, prima di tutto volevo fare i complimenti. Grazie. Per la trasmissione, e complimenti anche a lei come giornalista, modo personale. E niente, io sono favorevolissimo all'aumento pena. Della pena, sì. Cioè una pena concreta che faccia paura. Omicidio volontario, uno che si mette alla guida e ammazza, a meno che non sia, porca miseria, gli è scoppiata una gomma, quindi indipendente dalla sua volontà. E vabbè, è una disgrazia, ma se uno si mette alla guida distratto, al cellulare, peggio ancora fumato, bevuto, e ammazza una persona, deve andare in galera, omicidio volontario, porca troia, Va bene, ma lei perché è così veemente? Ha avuto dei casi in famiglia? Grazie a Dio non mi è successo niente, no, sono per la giustizia. Va bene, le trovo che sono atto giustizia. Va bene, ma questa è l'opposizione. Marco, Claudio, buongiorno. Claudio. Buongiorno, sì, io volevo dire che mi sembra che da 40 anni, quando è stato ucciso mio cugino da un ubriaco, non sia cambiato niente. Io non ho nessuna speranza che queste leggi possano cambiare qualcosa. La speranza, secondo me, viene dai sistemi di guida autonoma, che stanno facendo passi da gigante. Google ha fatto 4 milioni di chilometri con un incidente lieve, la Tesla ha già disponibile, si può anche andare a provare, un sistema di guida semi-autonoma che evita al 99% qualsiasi tipo di incidente. Chiaro che se esce un bambino da un castello e viene davanti alla macchina, non c'è niente che lo salva. Quindi lei ci salverà, diciamo, l'automazione della guida. Questo, io credo che l'automazione della guida sarà l'unica soluzione. La speranza è che la politica e i sistemi e le motorizzazioni e i ministeri non si mettano di traverso boicottando per... E perché boicottano, secondo lei? Cosa c'è? Qualche lobby, le case automobilistiche? Chi è che blocca? Credo che io sto guidando... Ecco, intanto lì c'è una macchina nel fosso e io sto guidando una auto elettrica in questo momento e sono convinto che, per esempio, le auto elettriche, lo sviluppo delle auto elettriche nel corso degli anni sia stato boicottato. Come probabilmente saranno boicottati questi sistemi, perché alla maggior parte delle case automobilistiche tradizionali, visto che in questo mercato non ci sono, il mercato lo sta facendo Tesla, lo sta facendo Google, Apple ha assunto qualcosa come 150 ingegneri per sviluppare questa cosa, loro saranno fuori, quindi faranno pesare... Solo una domanda, questo mi sembra chiaro il suo punto di vista volto verso il futuro. Che fine ha fatto l'omicidio di suo cugino? È stato condannato per omicidio colposo, io ero molto piccolo all'epoca, parliamo veramente di 40 anni fa, io ero molto piccolo e credo che non abbia fatto neanche un giorno in carcere, neanche omicidio un giorno colposo lì per condizionale. Quindi. Allora, avvocato Cesare, con cui stavo parlando, Gianmarco Cesare, che sta seguendo minuto per minuto la legge alla Camera, i dati dicono che il fenomeno della pirateria stradale in Italia è cresciuto nel primo semestre 2015 del 4,3%, con 61 vittime, più di due alla settimana. Chi sono di fronte a questi dati le forze politiche che in questo momento fanno ostruzionismo verso questa legge? Ma già hanno fatto ostruzionismo al Senato e ho visto oggi anche delle notizie che una parte addirittura del DS che fa capo ai bersaniani si dichiara contrario, che dice che questa riforma corrisponde a esigenze di ansia popolare, a esigenze di consenso con una l'ala bersaniana sì. Del PD dice questo, sì. Lei dalla Camera poi che addirittura con l'omicidio stradale che si va a formulare si prenderebbero pene più alte dell'omicidio volontario, per cui dice converrebbe addirittura girare con una pistola in macchina. Cioè, chi l'ha detto questo? Sono io veramente. Ma chi l'ha detto questo? Chi è il parlamentare che l'ha detto? Era uscito, l'avevo letto purtroppo prima. Ecco, ma quale, vediamo, lei che conosce ormai i suoi polli, che sì. Sia diventata una questione politica, chiaro, i bersaniani lo fanno per far dispetto ai renziani, poi ognuno c'era, adesso non entro in questi meandri perché non è proprio la mia materia prediletta, che però anche una cosa del genere diventi obiettivo di lavorio politico, di sottobosco politico di fronte delle persone che stavano ieri a manifestare, dicono dateci almeno la possibilità, non dico di giustizia per i nostri morti, che è una cosa retorica, ma che perlomeno le persone quando si mettono il telefonino in mano e telefonano e ti guardano male, se soltanto provi soltanto a alzare gli occhi verso loro, sappiano che rischiano una bella dose di galera se lo fanno, poi sono fatti loro, o sbaglio? Infatti quello che si vuole cambiare, cioè quello che dobbiamo dire è che non c'è assolutamente una sproporzione con altri reati più gravi, perché l'omicidio colposo stradale è un reato contro la vita, contro il bene giuridico della vita e dell'integrità psichica e fisica, che sono due diritti umani inviolabili, fondamentali, assoluti. Quindi nel momento stesso in cui noi diciamo che questa riforma corrisponde a una esigenza di contrasto del crimine stradale, di fronte del fatto di cercare di abbassare il numero dei morti e dei gravemente invalidi sulla strada, noi lo facciamo proprio per un'esigenza di attualizzazione delle pene di fronte alla constatazione che le pene esistenti non hanno più alcuna deterrenza. Allora, l'automobilista medio, l'automobilista medio, in cui ci siamo tutti, nessuno fuori, nessuno fa il buono e il bravo, ha ormai la sicurezza, la percezione sedimentata, geneticamente acquisita, che comunque qualunque scorrettezza, vuoi per fretta, vuoi per trascuratezza, vuoi per spocchia, vuoi per animo delinquenziale congenito, non è comunque punita, non rischia. Ha detto l'avvocato Cesare che addirittura anche l'omissione di soccorso in fondo non è nemmeno perseguita in maniera, punita in maniera talmente efficace da indurre una persona a fermarsi. Conviene scappare. Fermiamoci un attimo, tra poco. Melog, cronache meridiane. Sono Alessandra, la mamma di una splendida bambina che si chiama Claudia. Mia figlia è stata uccisa da un drogato sulle strisce pedonali che l'ha fatta volare per 20 metri, l'ha lasciata agonizzante per terra, è scappato, ha cambiato macchina, ha lavato il sangue di mia figlia da quella macchina, è ritornato a divertirsi con gli amici. Io pretendo una pena per questa persona che ancora è libera. Secondo lei il testo è completo? No, è solo parziale, solo quando si parla di alcol e di droghe, ma quando si va... 800240024, quelle che continuate a sentire sono le voci delle parenti delle vittime della strada, prese dal sito del Fatto, che raccontano la loro vicenda personale, sono lì perché si muovono alla Camera per dare una legge, non tanto che possa dare ormai giustizia ai loro parenti che sono morti, ma ricordano gli episodi per dire facciamo una legge che sia un deterrente. Parla la signora di un episodio in cui la persona che ha ucciso la persona lei cara poi ha lavato la macchina dal sangue, poi è andato con gli amici come se niente fosse, che sono esattamente le fattispecie di un killer che ammazza una persona, ma quando poi va in tribunale il fatto l'abbia fatto guidando l'automobile viene considerato meno grave, c'è quasi un tentativo, un generalizzato senso di indulgenza. Giuseppe, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a voi e complimenti per la trasmissione. Senta, io chiamavo ma due o tre semplici domande, perché la prima è innanzitutto come mai sulle autostrade Italia principalmente, perché io viaggio anche all'estero, è permessa ancora la vendita dei superalcolici, alcolici e superalcolici, e questa in Francia non è permessa, si può bere solo acqua, tè o comunque non sostanze alcoliche o superalcoliche. Negli autogrill non si compra una bottiglia di qualunque cosa? Sì, lei può trovare dal vino all'ambrusco tutto, può comprare di tutto e di più, giusto per l'amor di Dio, per quanto riguarda gli alimenti, ma trovo che la vendita, permesso della vendita di alcolici e superalcolici sia assolutamente, assolutamente sbagliato, e quindi non vedo dove sta la difficoltà nel vietare la vendita di queste sostanze. Però con questa legge c'entra poco, è un altro tipo di strada quella, è giusto quello che dice? Sì, ha ragione, però son tante le problematiche che poi ci portano. Beh, dice, potrebbe essere questa una delle strade, tanto per abbassare il livello, anche se gli omicidi stradali di cui è aumentata la percentuale in realtà sono in leggero calo, quelle da dipendenza di altre, da persone che hanno bevuto, da persone ubriache, ma sono cresciute quelle invece in stato di dipendenza da stupefacenti, perché sono anche cambiate e diversificate le droghe, quindi è più facile la gente dia un tiro di cocaina piuttosto che si beva mezza bottiglia di superalcolico. Giuseppe, avevo parlato. Francesca, buongiorno. Francesca. Sì, buongiorno. Sì. L'ascolto. Sì, eccoci. Salve, buongiorno. Allora, io volevo precisare che oltre alle leggi, per carità, fanno bene e sono assolutamente concorde, il problema è che è un problema di educazione stradale. Mi sono occupata per anni come ingegnere del traffico di educazione, quindi di oltre che gli interventi legati alla messa in sicurezza delle strade, proprio di educare le persone sin da piccoli, quindi dall'età proprio dell'infanzia, a non cercare di non mettere la macchina sulle strisce pedonali, di dire a mamma quando salgo in macchina di mettermi il seggiolino. E quindi poi alla fine la certezza della pena secondo me non è proprio il fatto che può così risolvere in maniera automatica il problema del mortale. Lei cosa suggerisce per la sua esperienza? Guarda, per la mia esperienza purtroppo io combatto ancora, perché me ne accorgo anche con, io ho due bambini piccoli di 3-5 anni che sono in macchina con me con il seggiolino, tante mamme vengono ancora a scuola e non legano i bambini, poi non piangessero quando fanno un incidente. Poi quando gli escono dal parabrezza come una palla di cannone. Esatto, bambino sicuro quando sfracellati in mezzo ai detriti siluro, di vetro, perché questo accade questo, fanno gli schifati. Quindi guardi, l'unica cosa che in effetti un po' ha colpito in questi 10 anni, dove c'è stata una riduzione di incidenti stradali, soprattutto mortali, siamo passati da 10.000 a 12.000 morti l'anno, quindi un paese, fino a 2-3.000 oggi ormai, siamo veramente bassi, neanche arriviamo a 3.000 credo, di cui quelli in autostrada sono circa 300, uno pensa che si muore in autostrada, ma non è vero, perché l'alta velocità, ma anche le condizioni che uno sa che sta correndo, si mette comunque in condizioni di guidare più attento. Sì. Magari non legge. Sì, il cellulare, però andiamo al punto. Se no, lei faccia un bel discorso, signora, abbiamo capito. Ci vorrebbe maggiore educazione stradale. Probabilmente aspettiamo che ci venga. Sì, che sì, non so. Da piccoli, sì, aspettiamo, si apra il cielo, scende una colombina e dica: siate tutti buoni. La gente continua a girare per strada non rispettando le regole, passando con il rosso, sgommando dentro le città, fregandosene dei marciapiedi, delle strisce pedonali, delle rampe dei disabili, e soprattutto con il telefono in mano, e soprattutto imbottendosi di vino e tirando cocaina, andandosi a fare una passeggiata come se nulla fosse. Questo è il punto. Gianmarco Cesari. Guarda, hai detto proprio bene, guida con l'uso di dispositivi elettronici, col telefonino in mano, che adesso si usa per chattare, per vestaggiare. Tutti ce l'hanno, tutti. Telefonare. Si ferma un semaforo di Roma. Questa fattispecie non c'è. No, non c'è nella legge, non è previsto. No, non è prevista, rimarrà chi è distratto, che poi è quello che causa la maggior parte dei morti sulla strada, ormai punito con la pena attuale da 2 a 7 anni. Ah, non c'è una norma che diciamo la cosa più evidente. Non l'hanno inserita, non l'hanno reintrodotta. Ma chi è che l'aveva fatta togliere? L'hanno bocciata in Senato e non è stata reintrodotta alla Camera. Beh, certo, perché alla Camera sono state reintrodotte alcune. Si vendono tanti telefonini in Italia, guai a dire che c'è un momento in cui non si può. Abbiamo chiesto proprio questo, di reinserire nel testo un aggravante proprio per la guida all'uso di dispositivi elettronici, dello smartphone. Guarda, io non sono nelle città d'Italia. Roma, se lei si ferma a un semaforo, su 10 macchine 8 hanno il telefono. Tutti a telefonino, tutti, ma non tutti a telefonare, tutti a messaggiare. E se si messaggia, si guarda dal telefonino, non si guarda la strada davanti e si uccide. Ecco, abbiamo chiesto poi di escludere il dimezzamento della pena previsto dal testo di riforma, che dice: se c'è il concorso di colpa la pena si può dimezzare da un terzo alla metà. E mi faccia un esempio di concorso di colpa. Uno si vuole suicidare, qual è l'esempio di concorso? No, concorso di colpa, diciamo, c'è se io per esempio invado, che ne so, motociclista in curva che sta a destra totalmente spostata a sinistra e non ci dovrebbe stare, per il culo visto ormai stare estremamente a destra, e chiaramente si fa scontrare al centro strada. Entrambi i motociclisti hanno colpa in questo caso, no? Stando tutti quanti sulla propria sinistra della corsia, quando dovrebbero stare a destra. Ma non era possibile, scusi, visto che poi quando si entra in questione di lana caprina, vai a definire poi dopo a posteriori. Certo, non si poteva intanto cominciare a estrapolare un pacchetto di situazioni certe, cioè guidare con il telefonino, guidare avendo bevuto. Così come c'è, già le prevede, per esempio sorpasso col rosso, e soprattutto però delle fattispecie di condotta azzardata e temeraria ci stanno specificate. Però quindi, quali sono? Quali sono? Non c'è. Il passaggio con il semaforo rosso, quali sono, per capire? Poi? Sono passaggio col semaforo rosso, poi sono l'inversione a due in prossimità di intersezione o crocevia, sono avevamo chiesto addirittura anche le gare di velocità, oppure chi eccede adesso la velocità oltre 50 orari e oltre 50 orari in strade extraurbane, quindi c'è punito questo eccesso di velocità. Però la fattispecie mortale della distrazione alla guida da smartphone non viene inclusa. Era forse meglio, invece di fare questa fascia di gradazione che hanno fatto, colpa lieve 2-7 anni, colpa aggravata da guida azzardata e temeraria e guida in stato d'ebbrezza da 0,8 a 1,5, da 8 a 10, da 4 che è salito a 5 a 10 anni, e la guida, diciamo, estrema, proprio criminale, da 8 a 10 anni per i reati con alcol sopra l'1,5%, sarebbe forse stato meglio prevedere un range di un'unica forchetta a questo punto, che poteva andare dai 4 ai 10 anni. Sì, ho visto anche un po' complicata poi la definizione Però come vedi, siccome si parte sempre dal minimo, sempre dal minimo della pena, noi avevamo infatti detto per le fattispecie di guida azzardata e temeraria e la guida sotto influenza d'alcol sanzionate rigidamente con un non inferiore a 12 anni, una pena molto altissima. Invece i reati di colpa lieve, come sono adesso, alzando la pena da 4 a 10 anni. Questo, diciamo, non è stato recepito. Quindi noi ci troviamo di fronte adesso a una riforma che purtroppo, per paura di non aggravare troppo le pene, rischierà di far sì che un criminale stradale comunque uccida e possa tornare a casa. Certo, ci sono dei grandi passi avanti. C'è per esempio il fatto della revisione della patente. Adesso la patente si ritirerà per un tempo effettivo di 10 anni magari, quindi ci sarà questo... Ah, per 10 anni non si guida? Beh, questa è già una bella pena, per chi guida è una bella pena. Sulla patente si inciderà per il... Allora, fermo un attimo, devo passare l'interruzione soltanto un istante, perché vedo già ci sono altre telefonate, poi mi spieghi un po' anche questa cosa complicatissima, definizione del tasso alcolemico delle persone. Ci sono delle scale talmente difficili, come fanno a definirlo poi a posteriori, che soltanto per una piccolissima percentuale scatta una pena piuttosto che un'altra? Ci fermiamo un istante solo. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli, scoprila su pedemontana.com. vi presenta Melog, cronache meridiane. .800240024, stiamo parlando di omicidio stradale, stiamo seguendo praticamente a tempo reale l'iter della legge che adesso è in discussione alla Camera. Abbiamo Antonio. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, a me 5 anni fa hanno investito mio papà sulle strisce pedonali. Per fortuna non è morto, però il disgraziato è scappato. E quando sento la tele tutto quel che accade e tutti quei disgraziati qui che scappano, veramente mi viene la pelle d'oca. Ma mi viene la pelle d'oca e il volto a stomaco veramente a pensare che un avvocato presidente di un'associazione delle vittime stradali deve andare in Parlamento a chiedere a quelle persone lì di inasprire le pene. Perché questa cosa le indigna? Certo che indigna, cioè è vomitevole. Loro non devono aspettare che un presidente vada a dire rivediamo le pene. Loro devono dire io non posso permettere che un cittadino italiano venga massacrato da ubriaconi, da tossici, ma anche da persone normali. Guardi che la maggior parte sono anche ubriaconi tossici, sono anche degli integerrimi padri di famiglia, degli ottimi figli di certo, buona famiglia, certo. Non è che sono solo... Ci sono anche i tossici, gli ubriaconi, senz'altro. Può capitare a tutti, può capitare anche a me una distrazione. Sì, no, a me non può capitare di farmi di droga a bere e poi mettermi a guidare, questo è poco ma sicuro, ci sto attento, questo no, però non può capitare a tutti. Non può andare un avvocato a dire il minimo della pena deve essere di 8 anni, perché guardi, lui fa portatore dell'istanza di le vittime di queste persone che hanno fatto... Il termine italiano è brutto dire lobby, non è lobby, ma un'associazione che si muove per un diritto che reputa che è stato violato. L'avvocato certo, fa il loro portavoce. Certo. Ma lui è nei termini di legge, non è che è una cosa contro la legge. Certo, può fare. Certo, lui fa benissimo, ma farebbe anche bene a dire nome e cognome di quelle persone lì che dicono no, non la vedo giusta, perché quelle persone lì prima o poi dovranno ripresentarsi di fronte agli elettori. Ed è giusto che prendino anche pesci in faccia. Guardi, c'è sui giornali Danilo Leva, avvocato e responsabile giustizia del partito a tempi di Bersani. Questa legge è l'ennesimo esempio di come in campo penale si cerchi di spiegare il diritto a esigenze di consenso sulla spinta di fatti di cronaca. Per paradosso, un cittadino converrebbe girare con una pistola nel cruscotto nel caso investa qualcuno, rischia meno galera che con l'omicidio volontario in quello stradale. Ecco, l'apra, questa è la stampa di oggi, c'è scritto. Sono persone che spostano quella che è una normale, lecita contrapposizione politica fra le parti su questo territorio, che è un territorio che secondo me è talmente costellato di dolore, bisognerebbe avere un pochino più di cautela. Chetti, buongiorno. Buongiorno. Senta, partendo dal fatto di che sono un'extracomunitaria che sta applicando a essere cittadina, per me non ci sono differenze tra quello che è investito, che sia italiano o no, le leggi devono essere uguali per questo tutti. Questo nessuno l'ha detto. No, perché il signor diceva che... Vabbè, comunque detto, io... Beh, sa, molte volte capita che è un fenomeno molto frequente, se hanno persone in stato alcolico alto, percentualmente ce ne sono, che non hanno nemmeno la patente, non hanno, e chiaramente succede. Sì. Poi chiaramente poi l'opinione pubblica si concentra più su quelli. Rumeno, ubriaco, ha ucciso, è vero, poi però... esiste, in parte esiste anche questo problema, però non si può generalizzare. Allora, il mio caso è stato il sabato scorso, alle 2 la mattina domenica, che venendo, perché io sono della provincia di Bergamo, venendo da Gesati, la strada principale, una della rotonda principale di Gesati, venendo in direzione Vaprio, si è tamponato una sub nera. Mio marito è sceso perché guidava lui, c'è stato anche questo ragazzo che guidava, e ha detto che è successo, cioè se vedeva che lui aveva la... Quando mio marito a un certo punto, due secondi in più, le dice: tu sei ubriaco. E il ragazzo un po' mi ha detto: signora, lei come sta? Lei, guarda, io sono un po' così, le dico, adesso sto bene, però ci mettiamo d'accordo. Allora le ho detto: sì, va bene, mi metto avanti con la macchina, così ti... No, mio marito ha detto: no, non ti mettere avanti, mettete per favore dietro, che così ci mettiamo d'accordo. E questo no, voleva mettersi avanti. A quel punto si è messo sopra la macchina, cioè, a guidare, mio marito se l'ha messo avanti, dice: no, tu te ne vuoi andare, perché abbiamo visto la situazione con questa cosa di che si sentiva il tuffo di che era un po' ubriacone. E allora il ragazzo, c'era una ragazza... Come va a finire la storia? Lui. Arrivi al punto, sennò mi racconto tutta la vita di questo qua. Il punto è questo, mio marito, questi qua le ha dato avanti la macchina, un po' avanti, mio marito se l'ha messo avanti, anche io mi sono messa avanti. Sì, tutti e tre davanti. E che è successo? Non averlo fatto, perché questi le ha dato avanti, io sono dovuta... Allora, ce la racconto un'altra volta, signora, non per cattiveria, ma cioè, andiamo fuori argomento, abbiamo capito, tutti e tre avanti con la macchina, con l'ubriacone. Luigina. Sì. Buongiorno. Buongiorno, io le voglio raccontare un attimino la mia storia, per dire questo che sono incazzatissima, perché in Italia ci sono tante chiacchiere, ma le leggi non funzionano, perché le leggi, mi scusi se mi permette... Vada al punto, questo, ma sono veramente... arrivederci Lucina, no Lucina, arrabbiata, però ce l'ho da dire all'inizio, o ci dice cos'è il punto, qual è il punto? È questo, io lo dico subito, allora mio marito è stato investito, mio marito portava il camion, è stato investito da un collega, da un camionista, e ha perso la vita all'età di 56 anni. Lo sai che cosa gli hanno fatto a questo ragazzo? Non gli hanno fatto proprio niente. Gli hanno sospeso la patente e aveva omicidio colposo, però quando hai i soldi e paghi gli avvocati buoni, purtroppo è così. Vabbè, questo è un diritto avere gli avvocati buoni. Per un periodo la patente, dopodiché lui comunque... E Luigina è indignata, e proprio per questa ragione noi siamo con l'avvocato Cesare a parlare di una legge dovrebbe avere dei termini più rigidi. Una battuta, avvocato, gli episodi sono tantissimi, detto, finiti. Le vittime della strada... ad oggi sono effettivamente abbandonate dallo Stato. Le pene vanno innalzate nel minimo della pena, perché i minimi attuali sono veramente privi di alcuna deterrente, non possono assolutamente servire a prevenire il crimine stradale. Questa è un'esigenza sociale che il Parlamento deve portare avanti. Noi abbiamo fatto appello, che quella persona diceva: come fa l'avvocato a stare là? Io sono 3 giorni che sto qua, da lunedì. E sono stato tantissime volte, che neanche nessuno se lo può immaginare, a spiegare ai parlamentari la necessità di questa legge. Noi crediamo e speriamo in questa legge che possa servire a prevenire la strage. Ma l'impressione sua è che i parlamentari non la sentano come una cosa... un braccio di ferro, ma la voteranno, come dice oggi pubblicato sulla stampa, per disciplina di partito, perché molti non si rendono conto... Il vicepresidente della Camera dice: voto per disciplina di partito. Sì, ma non si rendono conto, con una gravissima indifferenza, della gravità delle conseguenze del reato di omicidio che causa alle famiglie, ai familiari delle vittime della strada. Grazie avvocato Cesare, noi quando ci saranno novità la seguiremo, perché uno dei punti che abbiamo con più passione e con più insistenza cercato di far capire e comprendere chi ci ascolta e chi ci sente. Grazie Chiappini, grazie Intonti, alla prossima.